Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nel settembre scorso, Sana Adafani, 18enne marocchina, venne uccisa dal padre, che non accettava che lei avesse una relazione con un ragazzo italiano. Nei giorni scorsi il processo si è concluso con la condanna all'ergastolo per il padre. Ma rispetto a 3 anni fa e al caso simile della giovane Hina, il livello di indifferenza è ulteriormente cresciuto. Che fine hanno fatto le femministe? Si domanda Paolo Di Stefano in un editoriale pubblicato sul Corriere. Quando nell'agosto 2006, in provincia di Brescia, Hina Salem, una 20enne pakistana, fu sgozzata dal padre e sepolta nel giardino di casa perché si comportava da occidentale e rischiava di diventare come le ragazze di qui, l'opinione pubblica rimase sconvolta con tanto di mobilitazione del dibattito culturale sullo scontro o confronto di civiltà tra Islam e Occidente. Al delitto si aggiunse l'agghiacciante dichiarazione della madre di Hina, che dava ragione al marito. Mohammed ha fatto giustizia. 3 anni dopo, e cioè nel settembre scorso, a Pordenone, un destino analogo è toccato a Sanaa Adafani, una 18enne marocchina uccisa dal padre che, esattamente come il padre di Hina, pretendeva di disporre della vita della figlia e non accettava la sua relazione con un ragazzo italiano. Lunedì scorso il tribunale ha emesso la stessa sentenza di 3 anni fa. Ergastolo. Il delitto d'onore, per fortuna, è punito dalla nostra legge. Giustamente, la deputata Suad Sbai, presidente delle donne marocchine in Italia, si è rammaricata del fatto che il processo è stato disertato dalle femministe, che neanche si sono dichiarate parte civile in difesa della povera Sanaa. Ma forse, a ben pensarci, ci sarebbero ragioni di rammarico più sottile e forse più gravi. Non da ultimo, la sensazione è che mentre in passato si restava indignati e increduli di fronte a queste forme di violenza tribale, oggi si sia passati a una sorta di generale indifferenza, che può essere tranquillamente assimilata ad altri tipi di assuefazione che si manifestano in presenza delle ordinarie follie cui assistiamo quasi quotidianamente e che non hanno nessuna coloritura etnica o religiosa. Insensate stragi familiari, carneficine di provincia, regolamenti di conti tra vicini e lontani. Ma viceversa, la stessa indifferenza si può interpretare anche come un'alzata di spalle di fronte a fenomeni che tutto sommato ci appaiono erroneamente estranei. Un modo per dire, in fondo, sono fatti loro, tra complicità e autolesionismo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Di Stefano, Per Hina e Sanaa, stesso ergastolo, ma si diffonde l'indifferenza, dal Corriere della Sera del 14 giugno. Nei giorni scorsi, in una spiaggia della Liguria, ha aperto i battenti una discoteca molto particolare. Si balla al ritmo di canzoni religiose e si servono alcolici solo agli adulti. E a mezzanotte tutti a casa. Il riverbero delle luci pulsa fino al lungomare, dove sciamano ragazzine in short e ragazzi con il bicchiere in mano, a tirar tardi per decidere che fare nella notte calda profumata ormai d'estate e vacanze. Lo sciabordio della risacca è coperto dall'incalzare dei bassi amplificati per dare il ritmo scandito dall'irrefrenabile DJ. È qui la festa, ma è una festa diversa. Si balla senza sballo, comincia alle 9 di sera e a mezzanotte tutti a casa. La rotonda sul mare è quella dei Bagni San Pietro ad Arenzano. Qui si danza nel nome di Gesù e alla console c'è un DJ passato dalle discoteche delle navi da crociera all'altare, Don Roberto Fischer, 33 anni, viceparroco della chiesa dedicata a San Nazario e Celso, l'ex legionario e il giovane discepolo che evangelizzarono la Liguria. I Bagni Maddalena avrebbero forse reso meglio l'idea, ma con San Pietro andiamo più sul sicuro, scherza Padre Dante, giovane carmelitano del santuario dedicato al Bambin di Praga, qui in veste di butta dentro. Lui indossa il saio, il DJ è in maglietta con il volto della Madonna di Lourdes e rosario al collo. Sant'Agostino diceva che chi canta prega 2 volte. Se cantiamo e balliamo, l'effetto si quadruplica, dice Don Roberto, che ha scoperto la vocazione ascoltando Papa Wojtyla a Roma ed è stato ordinato sacerdote nel 2004 dal cardinale Tarcisio Bertone. La prima discoteca cristiana della Liguria è stata inaugurata ieri sera da un centinaio di persone di tutte le età, dai bisnonni ai ragazzini. C'è anche una giovane donna islamica, che non riesce a star ferma nell'angolo all'ingresso, sulle note di «Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te». Mani intrecciate sul cuore a mimarne il battito, braccia al cielo, saltelli, passi incrociati, si balla come se Osanna fosse la Macarena. In fondo, non facciamo che esaltare una gestualità legata alla preghiera, sottolinea il DJ, che invita a divertirsi perché la Madonna ha detto «Io vi voglio felici sulla terra». Allora via con «Shock the devil off», «Ama Gesù con tutto il cuore», «Lodiamo il Signore Gesù perché vivente», «Gesù ti ama», «Fiesta, fiesta, alleluia», «Siamo la gente che loda il Signore», «Gesù è il numero uno», grida nel microfono Don Roberto. «Apriamo il nostro cuore, il resto lo fa la Madonna». E via con le canzoni del CD composto dai parrocchiani, tra cui quella scritta da un giovane che aveva perso la mamma ma ne ha trovata un'altra in cielo. Poi c'è il repertorio dei canti della Madonna di Medjugorje, ma Don Roberto annuncia anche i Village People ai Bagni San Pietro e via con YMCA, che tutto è tranne una celebrazione musicale della Young Men's Christian Association. I cocktail alcolici solo per gli adulti, avverte Emanuela, titolare del bar che ospita la discoteca una volta alla settimana, la prossima ancora di venerdì e poi tutti i mercoledì sera, dopo che Don Roberto e i suoi evangelini sono passati sulle spiagge a parlare di Gesù e a celebrare la messa. Il cardinale Angelo Bagnasco come ha commentato l'iniziativa? Lui è come un padre per me, è aperto e spiritoso. Ad ogni buon conto, tra i collaboratori dell'arcivescovo di Genova c'è proprio il parroco di Arenzano, Don Giorgio Noli, nel CDA della Fondazione Carige. Si chiude con tutti in pista per il limbo, ovviamente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandra Pieracci, La discoteca cristiana sulla spiaggia, dalla stampa del 13 giugno. Secondo una recente ricerca, avere una moglie più giovane fa bene alla salute e allunga la vita. E le donne cosa ne pensano? Non scandalizziamoci se Michael Douglas o Nicolas Sarkozy sono più anziani delle loro splendide compagne. Smettiamola di gridare subito al fascino del potere e del denaro. Le unioni tra uomini maturi e donne giovani spesso funzionano per ragioni biologiche, ormonali e socioculturali, ritenute valide dalla scienza. Al contrario, una donna matura sovente ha solo da rimetterci con un partner ragazzo. Scienza maschilista, potremmo dire. Ma parlano il Max Planck Institute, il Sancta Sanctorum scientifico made in Germany e autorevoli ricercatori americani. Secondo il Max Planck Institute, gli uomini traggono grandi vantaggi in ogni campo, biologico, sanitario, clinico, psicologico, da una relazione o da un'unione con partner più giovani. Mentre le donne mature, che si uniscono con uomini nati un po' di tempo dopo di loro, affrontano un destino contrario. La serie Welt am Sonntag ha dedicato una paginata al tema. Gli uomini, spiega Sven Drefal, ricercatore del Max Planck Institute, ricavano dall'unione con donne giovani o addirittura con ragazze Mädchenhaft, cioè dall'area adolescenziale, uno sprint biologico e ormonale nelle loro funzioni vitali. Si risveglia il loro organismo, le reattività fisiologiche vengono stimolate come nei giovani e l'aspettativa di durata media della vita si allunga. Nel caso delle donne mature succede il contrario, purtroppo per l'altra metà del cielo. Soprattutto la prevedibile durata della vita si riduce, frutto dello stress prodotto dalla violazione di norme, usi, tradizioni e pregiudizi sociali, ma non solo. La differenza, spiega Luan Brisendine, neurobiologa americana, sta anche nei meccanismi ormonali. Negli uomini, peso e ruolo del testosterone, dai 40 a 46 anni in su, scende, mentre la produzione di estrogeni aumenta. Secondo alcuni dei ricercatori tedeschi e americani, questo mutamento dell'equilibrio biologico dell'individuo maschio maturo produce, con influssi sul cervello, anche una reazione più intensa all'ossitocina, l'ormone che stimola la voglia di tenerezza e legame profondo. Questo mutamento, dice la Brisendine, fa sì che molte donne giovani apprezzino il vantaggio di un legame con un uomo più maturo. La reattività biologica e ormonale del cervello dell'uomo maturo lo spinge a cercare con la partner giovane un tipo di intimità che punta al piacere e alla gioia di lei, prima e di più che a quella di lui. Così l'armonia biologica tra uomini maturi e donne più giovani può persino rafforzare l'unità delle famiglie, non solo il piacere a letto. Biologia reazionaria? I dati sono questi. E un'altra ricerca del Journal of Happiness Studies ci dice che la maggioranza degli uomini tra i 20 e i 30 anni è infelice, insoddisfatta, quindi potenzialmente incapace di essere partner gratificanti. mentre l'80% delle donne sotto i 30 anni è felice, soddisfatta del successo negli studi, nella carriera, nel privato, almeno nel mondo anglosassone. Le curve della felicità si invertono, a vantaggio degli uomini dopo i 40-45. Così almeno dice la scienza. Eppure uno dei più bei film d'amore di tutti i tempi resta Harold and Maude, la storia di una geniale anziana sopravvissuta all'olocausto e di un teenager viziato ma intelligente. Ricordate? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Tarquini Longevità, la moglie più giovane fa bene alla salute, la scienza lo dimostra, da Repubblica del 14 giugno. Letture di Radio 24. Aveva detto: non mi divertirei a dire battute scritte da un altro. Ma ora un documentario messo in rete dai fan delusi rivela che le battute di Daniele Luttazzi sono in gran parte copiate dal repertorio dei grandi nomi della comicità americana. Un video fantasma si aggira per la rete. Si intitola Il meglio non è, di Daniele Luttazzi. Un filmato di 40 minuti che documenta come il comico abbia attinto a piene mani nei suoi spettacoli teatrali, libri e show televisivi al repertorio di alcuni grandi nomi della stand-up comedy. Personaggi popolarissimi nel mondo anglosassone, ma in Italia ancora sconosciuti ai più, come George Carlin, Bill Hicks, Chris Rock, Eddie Izzard o Robert Schimmel. La video inchiesta, un montaggio che alterna brani dei monologhi di Luttazzi a spezzoni degli originali britannici e soprattutto americani, è punteggiata da dichiarazioni del comico romagnolo che nel contesto suonano un po' stridenti, come questa: non mi divertirei a dire battute scritte da un altro. Dai grandi autori satirici, Luttazzi ha attinto alcune centinaia di battute, censite minuziosamente nel blog My Voice, ntvox.blogspot.com, un corposo dossier che si arricchisce ogni giorno con nuove segnalazioni. Non solo, il comico ha preso in prestito anche monologhi di diversi minuti, riproponendoli quasi parola per parola, salvo piccoli adattamenti per il pubblico italiano, senza mai però menzionare la fonte. A creare il filmato e il blog sono stati dei fan o ex fan di Luttazzi, delusi dalla scoperta che molte battute del loro beniamino erano in realtà importazioni da oltreoceano. Ragazzi che hanno conosciuto Carlin, X e gli altri grazie all'autore di Satiricon e che ora, si può dire, gli presentano il conto. O almeno gli chiedono chiarimenti. Temono, a ragione, le strumentalizzazioni politiche della loro inchiesta e non hanno gradito affatto che un articolo apparso sul giornale usasse pretestuosamente il loro video come appiglio per giustificare a posteriori l'editto bulgaro di Berlusconi. Non è la prima volta che l'originalità di Luttazzi viene messa in dubbio. Una delle sue ultime iniziative, La Palestra, un laboratorio collettivo di satira che prende spunto dai titoli dell'attualità, ha suscitato qualche fastidio tra i frequentatori di Spinoza, il blog satirico che proprio a questa formula deve le sue ultime fortune. Ma la questione dei prestiti di Luttazzi si era già posta alla fine del 2007, quando il comico fu cacciato dalla Sette per una battuta un po' greve su Giuliano Ferrara nella Vasca, che si rivelò essere il calco piuttosto fedele di un monologo di Bill Hicks sul conduttore radiofonico di destra Rush Limbaugh. All'epoca ne diede contro Christian Rocca sul Foglio, documentando anche altri debiti di Luttazzi verso i comici americani, a partire da quello vistoso con Dave Letterman. Rocca sottolineava, tra l'altro, un curioso costume di Daniele Fabbri in arte Luttazzi. Se qualcuno si appropria delle battute che lui stesso ha attinto da altri, salta su tutte le furie e inscena grandi tirate moraleggianti. Luttazzi, nella fattispecie, era inviperito perché una battuta dello spettacolo Satiricon, come fai a sapere quando una mosca scorreggia? Improvvisamente vola dritta. Era stata ripresa da Paolo Bonolis a Striscia la Notizia. Peccato che fosse di George Carlin, che la proponeva proponeva nei suoi monologhi già 30 anni fa. In Adenoidi, spettacolo del 2003, Luttazzi si scagliava contro i bastardi che hanno la faccia tosta di rubargli le battute. Per esempio questa: mio nonno era un duro, un vero duro. Sulla lapide c'era scritto: cazzo guardi, ottima, non c'è che dire. Ma ricorda un po' troppo quella che un'altra star della stand-up americana, Margaret Smith, recitava fin dagli anni Ottanta. He was an angry man, my uncle Swanee. He had printed on his gravestone, what are you looking at? O questa, folgorante, sulla masturbazione. Ricordo con angoscia la prima volta che ho fatto l'amore. Era notte, era buio, ero solo. Luttazzi accusava bonariamente Roberto Benigni di avergliela copiata. La stessa accusa al comico toscano avrebbe potuto muoverla Rodney Dangerfield. Do you remember the first time you had sex? I do, and boy, was I scared. I was alone. Perfino il gran barzellettiere Silvio Berlusconi avrebbe scopiazzato battute da Luttazzi, come il comico lamentò all'amico Marco Travaglio, che ne parlò al Corriere nel gennaio del 2006. Una di queste, il Cavaliere, l'aveva raccontata a una riunione di partito. Sapete com'è morto il nonno di Fini ad Auschwitz? È caduto dalla torretta di guardia. E poi c'era quella sull'infanzia frustrata di Pier Silvio. Quanti anni hai, figliuolo? 5, papà. Io alla tua età ne avevo 6. Una volta tanto il giornalista, ossessionato dagli archivi, non si è preso la briga di documentarsi. Avrebbe scoperto che la prima battuta si poteva leggere già 30 anni fa in una raccolta di barzellette su Auschwitz. La seconda è opera dell'autore per l'infanzia Shel Silverstein e risale agli anni 60. La cosa più grave, dichiarava Travaglio, è che Berlusconi non dice mai di chi sono queste frasi, le racconta come proprie. Già, grave. I fan più incalliti di Luttazzi probabilmente non ricordano queste vecchie polemiche giornalistiche. Passano però molto tempo su internet, dove non c'è il rischio di concreto che il video Il meglio non è di Daniele Luttazzi si diffonda rapidamente. Forse anche per questo da settimane è in corso un braccio di ferro tra chi cerca di mettere il video in rete su YouTube, su Facebook, su vari siti di file sharing e la Krasner Entertainment SRL, titolare dei diritti sul lavoro di Luttazzi, che ne chiede la rimozione per ragioni di copyright o di diffamazione. Ma non è tutto. Anche la voce dedicata a Luttazzi su Wikipedia è oggetto di una contesa interminabile. C'è un utente, Sante Parcucci, zelante e informatissimo fan di Luttazzi, che rielabora continuamente la sezione influenze artistiche, citazioni ed accuse di plagio, rimuovendo i link al video e ai blog incriminati. Non si sa chi sia, ma di certo è qualcuno che conosce il comico davvero bene, perfino i dettagli della sua storia familiare fino a 3 generazioni addietro. I fan delusi di Luttazzi hanno scoperto infatti che c'è un Sante Parcucci che nel 1906 si trasferì a Sant'Arcangelo di Romagna, paese natale di Luttazzi, e vi gestì una stamperia per poi passarne il testimone al nipote Alfonso Marchi, che è lo zio di Luttazzi, come il comico stesso rivela nel libro La guerra civile fredda. Caspita se studiano questi fan! Luttazzi ha reagito ai sospetti di plagio, adottando nel corso degli anni molte linee difensive. Ha prima respinto ogni accusa in una lettera stizzita a Repubblica del febbraio 2001. Tutte le battute di Satiricon sono originali. Se si sostiene il contrario, occorre fare degli esempi precisi, altrimenti mi si devono delle scuse. Poi, in risposta all'email di un fan, ha adombrato l'ipotesi che fossero gli americani come Jerry Seinfeld o Jay Leno, i cui autori scriveva setacciano internet, a piluccare dai suoi monologhi. Poi è passato ad argomenti più raffinati. Dissertazioni sulla natura della creazione artistica che vive di rifacimenti e variazioni sul tema, in barba al mito romantico dell'originalità. Per esempio, la battuta sulla mosca nella versione di Carlin parlava di una falena, moth. Tutta un'altra cosa, ne converrete. Poi ancora ha sostenuto di servirsi di questi omaggi a comici illustri come escamotage in vista di eventuali processi. Quando i parrucconi lo porteranno in tribunale sostenendo che la sua non è satira ma volgare insulto, lui potrà rivelare che la fonte di ispirazione è un autore che il mondo intero considera satirico. Ma allora si domanda qualche fan deluso, perché Luttazzi non ha tirato fuori il suo asso dalla manica nel caso Ferrara X che gli è costato la chiusura di Decameron e l'addio alla TV? L'ultima versione in ordine di tempo è quella della caccia al tesoro, un gioco che Luttazzi sostiene di fare da anni con i suoi fan, disseminando libri e spettacoli di riferimenti a battute altrui che i cultori della comicità possono scovare e in questo modo ridere 2 volte. I curatori del blog My Voice dubitano anche di questa versione e assicurano di aver dimostrato che sul sito di Luttazzi l'annuncio della caccia al tesoro è stato retrodatato ad arte per far credere che l'idea risalisse a molto tempo prima. E oltretutto alcune delle battute incriminate, quella sul nonno Burbero, quella sulla prima volta, compaiono nel monologo d'esordio di Luttazzi, Non qui Barbara, nessuno ci sta guardando, che risale a fine anni Ottanta. Insomma, questa caccia al tesoro va avanti da un po' troppo. Nel momento in cui questo articolo va in stampa, qualche riferimento della video inchiesta su Luttazzi è visibile su YouTube. Chissà quanto durerà, ma al di là del duello elettronico, c'è da sperare che i fan delusi di Luttazzi ottengano l'unica cosa che vogliono davvero, una spiegazione che dissipi i sospetti una volta per tutte. Tanto, così funziona internet, il video troverà in un modo o nell'altro una via per diffondersi. Ogni tentativo di fermarlo è velleitario. O meglio, direbbe Luttazzi, è come tappare la bocca con lo scotch a uno che sta per vomitare. Non puoi farlo. Ah, dimenticavo, questa è di Robert Schimmel. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Guido Vitiello, Il meglio non è di Daniele Luttazzi, dal Riformista dell'8 giugno.